Topic of our demo talk today is basic instructions from the Satipatthana Sutta. L'argomento del discorso di Dhamma di questa sera sono delle istruzioni di base prese dal Satipatthana Sutta. Now, last night you've heard an outline of the Buddha's teachings, which will have given you a certain framework to operate in. Then, this morning, rather detailed certain instructions were given to how to do the sitting meditation, how to do the walking meditation, and then about mindfulness in general activities, and then also about the interviews and balanced practice. Dunque, ieri sera nel discorso vi sono state date delle linee guida rispetto agli insegnamenti in generale del Buddha, per darvi un po' un quadro di riferimento entro cui lavorare, operare. Poi questa mattina vi sono state date delle istruzioni più dettagliate riguardo alla meditazione seduta, alla meditazione camminata, riguardo alle attività generali, qualche indicazione sui colloqui e come avere una pratica equilibrata. And so what we shall discuss is basic instructions from the Satipatthana Sutta, and then in this connection also we'll try to mention the five controlling faculties. Quindi quello che faremo questa sera è vedere appunto le istruzioni di base, così come vengono presentate nel Satipatthana Sutta, e poi quello che faremo in questo contesto è anche parlare un po' delle cinque facoltà di controllo. And all of this is meant to give you good tools to work with during your first few days of your retreat here. E lo scopo di questo è per fornirvi dei buoni strumenti che voi possiate usare nei vostri primi giorni qui di ritiro. Now, the Buddha has certainly given instructions on Satipatthana in the so-called Satipatthana Sutta from the middle-length discourses. Quindi il Buddha ha dato istruzioni di meditazione nel cosiddetto Satipatthana Sutta, e questo discorso si trova nella raccolta di discorsi di media lunghezza. So, what are the four Satipatthanas? What are the four establishments of mindfulness? And then the Buddha explains, here a meditator abides, contemplating the body as a body, ardent, clearly comprehending, and mindful, having put away covetousness and grief for the world. Allora, quali sono questi quattro Satipatthana, questi quattro fondamenti della consapevolezza? Allora, nel sutta si dice, qui dimora un monaco, osservando il corpo nel corpo, ardente, comprendendo chiaramente e consapevole, avendo messo da parte ogni brama o ogni dolore rispetto al mondo. Sì. And then, one abides contemplating feelings as feelings, ardent, clearly comprehending and mindful, having put away covetousness and grief for the world. E poi va avanti dicendo, qui appunto dimora un meditante o un monaco, contemplando le sensazioni nelle sensazioni, ardente, pienamente comprendente e consapevole, avendo messo da parte ogni desiderio, ogni brama e anche ogni avversione per le cose del mondo. Sì. Covetousness and grief. Eh sì, ogni dolore per il mondo, sì. Mm. tristezza riguardo al mondo. And one abides contemplating mind as mind, ardent, clearly comprehending and mindful, having put away covetousness and grief for the world. E allo stesso modo il meditante dimora nel il monaco contempla la mente, quindi di nuovo ardente, pienamente comprendente e consapevole, avendo messo da parte ogni desiderio o ogni dolore riguardo alle cose del mondo. And then the last part is one abides contemplating dhammas as dhammas, ardent, clearly comprehending and mindful, and having put aside covetousness and grief for the world. E poi allo stesso modo dimora contemplando i dhamma come dhamma, ardente, pienamente comprendente e consapevole, avendo messo da parte ogni dramma e ogni dolore per le cose del mondo. No, the meditators who've practiced here already during the last week will surely recognize certain of these instructions. I meditanti che sono già qui da prima sicuramente riconosceranno queste istruzioni. And today we shall touch on these instructions to some extent, also highlight aspects that we did not highlight last time, and then talk more about the five controlling faculties. Quindi cercheremo di capire meglio le istruzioni, sottolineeremo anche alcuni aspetti di cui non abbiamo parlato precedentemente, e inoltre inseriremo anche questo discorso sui cinque fattori di controllo, le cinque facoltà di controllo. Now, these instructions in the Satipatthana Sutta say, mindfulness should be accompanied by being ardent, so ardent energy, and sadhana also by clear comprehension. Quindi, così come indica il Sutta, la consapevolezza va sempre accompagnata con questo ardore, questa energia ardente, diciamo, oltre a questa capacità di comprendere pienamente. And certainly the Pali word that you use in the text is atapi, and related to this is atapiti, namely the verb which means to burn, to torment, or to even torture. Quindi atapi è la parola Pali che corrisponde a questo ardore, e atapiti è il verbo, e letteralmente significa bruciare, tormentare e addirittura torturare. And this certain term, atapi, oftentimes gets translated as ardent or as tireless energy. Quindi questa parola atapi spesso, più delle volte, viene tradotta con appunto ardente, ma a volte anche con un'energia instancabile. Mm-hmm. And for a still better understanding of this term atapi, it might be useful to hear the short Atapa Sutta, namely a discourse on atapa. Quindi per capire ancora meglio il significato di questa qualità, questo atapi, è utile sentire cosa ci dice l'Atapa Sutta, che sarebbe appunto un discorso su questa qualità. And there are actually two Atapa Suttas. The first one is extremely short. It consists of only two words, namely Atapan Karaniyam, which means ardent energy must be exercised. Allora, ci sono due sutta che si chiamano Atapa Sutta. Il primo è veramente brevissimo, consiste di sole due parole, Atapam Karaniyam, che significa appunto che questo ardore, questa energia deve essere coltivata. Must be cultivated. Yes, right. and or exercised. Oppure deve essere esercitata. No, the second Atthapadna Sutta seems to be a little bit longer, and it mentions the three purposes for which ardent energy is to be exerted. Il secondo Atthapasutta più lungo e indica anche tre scopi per i quali va esercitata questa energia ardente. So the first purpose is to prevent the arising of unwholesomeness. Il primo scopo è che previene il sorgere di fattori non salutari. And then the second one, to cause the arising of wholesomeness. Il secondo è che causa il sorgere invece di fattori salutari. And the third purpose is to endure bodily feelings that have arisen and are distressing. E il terzo è che aiuta a sopportare delle sensazioni fisiche che provocano della sofferenza. Yeah. And then, again along the same line for in order to gain a better understanding of Atthapa, we have one discourse from the Samyutta Nikaya entitled Faculty of Energy. Per capirlo ancora meglio c'è un altro passaggio da Samyutta Nikaya che è Faculty of Energy, che si intitola appunto si riferisce a questa facoltà dell'energia. And so there it says the noble disciple dwells with energy aroused for the abandoning of unwholesome states and the acquisition of wholesome states. Allora dice lì dimora il nobile discepolo coltivando questa energia per abbandonare gli stati negativi, quindi non salutari, e per invece far sorgere gli stati salutari. Yes. And then it further states that one is strong. Poi dice che una persona è forte. Firm in exertion. È fermo nello sforzo. And not shirking the responsibility of cultivating wholesome states. Cultivating wholesome states. E inoltre è una persona che non si ritrae dalla coltivazione di stati mentali positivi, che non si tira indietro rispetto a questo. So, what then does this mean in our meditation practice? When some predominant object has arisen in the body or the mind, then we send our observing and knowing mind towards the object again and again, moment after moment. Quindi questo cosa significa nella nostra pratica? Che quando sorge un oggetto predominante, noi dirigiamo la nostra mente osservante e che conosce verso l'oggetto, e questo lo facciamo ripetutamente. And certainly should some unwholesome mental state have arisen, such as, let's say, laziness or sloth and torpor, and then we try to dispel this state. E se dovesse sorgere uno stato mentale negativo, come per esempio la pigrizia o il torpore, allora noi facciamo del nostro meglio per eliminare questo stato mentale. And then also we try to develop the positive or wholesome mental state of being alert, of being energetic. E cerchiamo di coltivare lo stato mentale positivo opposto, che è quello di essere energetico e sveglio. Now, after 5 or 10 minutes of observing some predominant object, the mind might go, enough, now I've earned myself a break, a tea break. dopo 5-10 minuti di osservazione di un oggetto predominante, allora uno potrebbe pensare, bene, adesso io ne ho avuto abbastanza e mi merito una pausa, la pausa per il tè. And it is at this point that we need to invest the energy, ardent energy, into our practice and not take a tea break and suddenly instead go on observing the predominant object for another 5-10 minute period. Ed è proprio qui che noi dobbiamo esercitare questa energia ardente per continuare a restare con l'oggetto e non fare una pausa in quel momento, continuare a osservarlo. Or a common experience among beginning meditators at the beginning of a retreat is after a few hours of rather consistent sitting and walking in practice, the meditator goes, I've really worked pretty hard now I can go back to my room and take a nap. Un'altra cosa che succede abbastanza spesso, soprattutto ai principianti, è che dopo diverse ore di pratica seduta, camminata, eccetera, allora si comincia a pensare, oggi ho fatto veramente un buon lavoro, posso andare in camera mia a farmi un bel pisolino. And so this kind of a thinking is leading towards sleepiness and laziness. And with ardent energy, we then dispel it on the spot. Ed è proprio questo tipo di atteggiamento che ci conduce ad una mente pigra, alla sonnolenza, ed è proprio con questa energia ardente che noi riusciamo a cogliere questo attimo e a non cedere. And another practical aspect of ardent energy is in the course of a retreat, we try harder and harder. So if maybe the first evening we manage to practice until 8:30 or so, then the next day we try to practice until 8:45 or 9 o'clock, and then later on even beyond 9 o'clock. E quindi un aspetto di questa energia ardente è che noi cerchiamo di aumentare gradualmente il nostro sforzo nella pratica. Quindi se la prima sera riusciamo, per dire, a praticare fino alle 8:30, poi la seconda sera arriviamo alle 8:45, la terza sera magari arriviamo anche a meditare oltre le 9. And so now likewise in the morning hours, if at first we barely wake up in time for the first sitting, then after a couple of days the mind is much more energetic, and we wake up earlier, and then we're ready in time or even before the first sitting starts. Allo stesso modo, alla mattina inizialmente riusciamo a malapena a svegliarci ed arrivare alla prima seduta, ma con l'andare del tempo la mente diventa più energica e riusciremo sempre più a essere puntuali alle sedute, addirittura potremmo arrivare in anticipo sulla prima seduta della mattina. Another aspect of effort and ardent energy is an aspect of mental effort is that one practices forbearance in the face of difficulty or endurance. È un altro aspetto di questa mente così energetica, diciamo, è che uno esercita questa qualità che è quella della resistenza, della sopportazione di fronte a delle difficoltà. Now, what this means is, now let's say you're observing pain for quite some time and your mind is just about to fall apart. Wholesome mental states suddenly get weaker and weaker, and the unwholesome ones are approaching. In a situation like this, you need to invest energy into your practice, and as a result of this, your mind will be supported. Allora, può succedere per esempio che dopo un po' che osserviamo un dolore, allora la mente sta quasi per cedere, cadere a pezzi, dice. E quindi ci sono sempre più stati mentali negativi e sempre meno stati mentali positivi o salutari. Ed è proprio in questi momenti che è utile investire energia in modo che la mente diventi forte e si possa esercitare proprio questa qualità della resistenza e della sopportazione. And certainly, so this energy or the effort usually meditators experience as non-collapse of the wholesome mental states. E quindi questo fattore dell'energia o dello sforzo spesso i meditanti lo sperimentano, lo vivono come un non crollare, quindi come un non lasciarsi andare di fronte appunto alle difficoltà. Now, earlier on in the instructions from the Satipatthana Sutta, it said to observe the body as body and then to do so ardent and clearly comprehending. So let us look at clearly comprehending. Quindi quando abbiamo prima menzionato il sutta, abbiamo detto che appunto occorre osservare il corpo nel corpo, ardenti, e poi questo chiaramente comprendente, in italiano forse non suona tanto bene, quindi con chiara comprensione. E andiamo a spiegare cosa si intende per questa chiara comprensione. That certainly clear comprehension has been defined or explained as a form of initial wisdom which eventually can develop into full wisdom. Quindi questa chiara comprensione è stata descritta come una forma iniziale di saggezza che poi si può sviluppare in una saggezza piena, matura. It has also been described as acting in a clearly conscious way. Ed è stata anche descritta come l'agire in un modo chiaramente cosciente. Or, differently put, one's ability to fully grasp or comprehend what is taking place. O, detto in altre parole, la capacità di una persona di comprendere, di afferrare esattamente ciò che sta avvenendo. Now, also in the sense of, let's say, before doing something, you briefly reflect whether the activity planned is certainly going to be beneficial or not, suitable or not. E quindi si intende anche che prima di compiere una certa azione uno riflette sul fatto che questa azione sia di beneficio oppure no, se sia adatta oppure no. So, to give you an example for this, reading a good book under normal circumstances would be highly recommendable, but if you intend to do this while you are on an intensive Vipassana retreat, then it will be beneficial but not necessarily suitable. Per farvi un esempio, leggere un buon libro in circostanze normali può essere raccomandabile, quindi una buona cosa, ma se decidete di farlo durante un ritiro, sì, potrebbe portare a dei benefici, ma non è adatto alla situazione. Now, this clear comprehension is a general way of knowing what is certainly going on, and however, the really precise observation and then knowing the nature of an object, that's is not necessarily meant by clear comprehension. Quindi la chiara comprensione può essere questa capacità di sapere quello che sta succedendo, però comprendere le cose in maniera dettagliata o vedere le cose in maniera più precisa, allora questa è un'altra cosa, non è questo che si intende con chiara comprensione. Now, the text also says putting away covetousness and grief for the world. And since this expression gets mentioned even four times, it's worth to briefly say a few words about it. Inoltre il sutta dice che nel fare questo, nel contemplare in questo modo, la persona mette da parte la brama per le cose del mondo e la pena rispetto alle cose del mondo. No. E siccome viene detto quattro volte nel sutta, vale la pena di capire bene cosa significa. And the term, the Pali term for covetousness is abhijja, and this means sensual desire. Quindi la parola Pali per questa brama è abhijja, che letteralmente significa desiderio sensoriale o sensuale. And so, basically, we can reduce it further to maybe saying it's a form of greed. Quindi possiamo ridurlo ulteriormente e dire che è come fosse una forma di avidità. And di desiderio. As for the second part, covetousness, putting aside covetousness and grief for the world. Now the term grieve, or dominasa in Pali, sometimes gets translated as grief, but also as displeasure or discontent. Quindi quest'altra parola, domanasa in Pali, che io ho tradotto come dolore o pena, può anche essere, avere il significato di grief, displeasure and discontent. Quindi di dispiacere o insoddisfazione. And so the essence of this is disliking ill will. E quindi l'essenza di questo è che uno comunque viene a non gradire la malevolenza. And what this twofold expression is referring to is our common way of dealing with formations when we experience some desirable object, then liking is there, and we want to experience more and more of it, and when we come across some undesirable object, then disliking arises, we want to get rid of it as quickly as possible. E quindi cosa si intende per questa espressione così menzionata nel sutta? E che esprime la nostra normale modalità di rapportarci con i fenomeni. Quindi possiamo desiderare un determinato oggetto e quindi volerlo afferrare e tenerlo il più possibile, oppure viceversa, se un oggetto non è desiderabile, allora vogliamo allontanarlo. So, in the meditation practice, if we keep keep observing objects with liking and certain disliking, then our way of observation will be rather reactive, and certainly this is not what the Satipatthana Sutta is trying to say. Quindi se nella nostra meditazione noi continuiamo a rapportarci con l'oggetto in questo modo, cioè con del desiderio per l'oggetto oppure una volontà di allontanarlo, allora ci sarà una reattività nella mente riguardo a ciò che accade, e questo non è quello che ci sta insegnando il Satipatthana Sutta. And so instead the Satipatthana Sutta proposes that we observe objects in a non-reactive manner, in a detached manner. Satipatthana invece ci insegna a osservare gli oggetti in un modo non reattivo, in maniera distaccata. So, when we come across a pain then is just another object. Or when we come across some pleasant sensation or pleasant mental state, then this is just another object, nothing special. Se sorge un dolore è semplicemente un altro oggetto da osservare. Se sorge una sensazione piacevole, uno stato mentale piacevole, anche questo è solo un oggetto che entra nel nostro campo di osservazione. Now, so far we've dealt with ardent energy, we've dealt with clear comprehension, and then Next we need to briefly take a look at what is mentioned or what is meant by mindfulness. E quindi abbiamo parlato della, di questa energia ardente nella pratica. Poi la seconda cosa che abbiamo analizzato è questa chiara comprensione. Adesso ci rimane da parlare della consapevolezza, che è il terzo elemento. And so, we can define the term Satipatthana as a clear and firm and steadfast establishment of mindfulness on the respective object of observation. Quindi Satipatthana si può tradurre come un fermo, un solido stabilizzarsi della consapevolezza, dell'attenzione sull'oggetto. Poi c'erano degli altri aggettivi, close, firm and steadfast. Quindi in modo ravvicinato, fermo e continuo. And so maybe for you to better understand what is meant by mindfulness, sometimes it also gets translated as presence of mind. Per capire meglio cosa si intende con consapevolezza è utile a volte utilizzare il termine presenza mentale. Or as awareness. Oppure in italiano sono sinonimi. Or else as observing power. Oppure come potere dell'osservazione. Now see, in life, we can, let's say, we see some new object, and then we can just briefly, superficially look at it, not really understand what the object is about, and then move on. So that certainly would not really be mindfulness. Sì, nella nostra vita quotidiana noi potremmo incontrare degli oggetti e dargli così un'occhiata molto superficiale e poi andare avanti con la nostra vita. Quello non è da considerarsi consapevolezza. On the other hand, we could we see some new object and then we take much interest in it and we can closely observe it, we look at it maybe from different angles, etc. and this thing would be mindfulness. Ecco, invece possiamo incontrare un oggetto e nascere dell'interesse verso quell'oggetto, allora cominciamo a guardarlo, osservarlo dai diversi, da diverse angolazioni e più da vicino, allora questa sì può essere considerata consapevolezza. Or to give you another example, as Italians, most of you will know what pesto is, you may have pesto many times. And so then when Gianni and Domenica or Sandra prepare pesto, then you say, oh, I know this already, and you put the food into your mouth and you really don't pay attention to the flavor of pesto and its certain consistency, texture and so on and so forth. Per farvi un esempio più legato alla cultura italiana, tutti sapete cos'è il pesto e quindi immaginiamo che Gianni la domenica, insomma, durante un pasto preparino la pasta con il pesto, siccome vi è un gusto, cioè è un gusto che vi è familiare, allora potreste mangiarlo così con disinteresse, senza stare a guardare attentamente al suo gusto, alla consistenza, al profumo, eccetera. Okay. Mindful eating of pesto would be that you slowly and mindful take one spoonful of it and then you put it into your mouth and then you eat it really slowly and mindfully, you chew it several times until you get the taste of it and then you will know the specialties of the cooking here. Invece un modo consapevole di assaggiare, di gustare una pasta col pesto, allora vorrebbe dire prenderne un boccone, metterlo in bocca molto lentamente, tenerlo in bocca, masticarlo bene, gustarlo, assaporarlo, conoscere bene questo sapore e allora Allora, quello è un'osservazione consapevole del pesto in questo caso, e potreste anche sapere qualcosa di più della buona cucina qui di Pian dei Ciliegi. As certainly Italians, you're probably used to have un pezzo di pane with your lunch every day. And so you've been eating bread already many times in your lifetime. Come italiani siete probabilmente abituati a mangiare un pezzo di pane con i vostri pasti, e l'avete fatto probabilmente quotidianamente per anni. And so, what's so special about eating a piece of bread? Quindi non c'è niente di speciale. Cosa c'è di speciale nel mangiare un pezzo di pane? On one occasion during a retreat in Hungary, near the Venerable Sadhu Upandita, our teacher, has made a Vipassana experiment. And there during the retreat, brown bread was offered. And so during breakfast, he made it a point to mindfully chew the brown bread, or one mouthful of brown bread, until he really knew the taste of brown bread. And he chewed it 30 times. And he said, at first, brown bread basically doesn't have much taste. But only after chewing it about 30 times does the actual flavor appear. So please try it tomorrow morning. We'll never get over breakfast. Maybe not. Allora, un altro esempio di quando il venerabile Upandita è andato per un ritiro in Ungheria, e allora ha fatto un esperimento di Vipassana. Cioè, lì una mattina hanno servito del pane integrale. Allora lui si è impegnato a veramente capire quale fosse il gusto di questo pane. Ha preso un boccone del pane e l'ha masticato per 30 volte e poi l'ha ingoiato. Ha spiegato successivamente che inizialmente sapeva quasi di nulla questo pane, ed è stato solo dopo averlo masticato per 30 volte che ha veramente capito di cosa fosse fatto questo pane, che gusto avesse. E il venerabile ci invitava a fare lo stesso esperimento domani mattina a colazione. No drinking in between. No drinking tea or whatever. In between what? Chewing. Non è consentito bere mentre si mastica praticamente. So, when it comes to this mindfulness, then it has been described as having the characteristic of being non-superficial. So, in other words, of going deep into the object. Quindi la caratteristica della consapevolezza è la non-superficialità. Questo significa che la mente va in profondità nell'oggetto. And so to give you an example for this, a pain arises, and then you may say, oh, I know this pain already is my usual chronic pain. Why should I bother to look at it in detail? And then you don't really get to know anything about that pain. And so this is not mindfulness, but rather the chronic pain arises the next time, and then you decide, okay, this time around I will really try to understand, to observe carefully, and to know the nature of this chronic pain. And so then you observe it very carefully as it first arises, and then you stay with it, and then you might see that the pain is intensifying. You might see after a while it's suddenly getting less, then it's gone, then it's back, then it's changing to some other sensation, and eventually it's gone. Allora, per fare un altro esempio, allora vi sorge un dolore, che è un dolore cronico che ben conoscete. Allora voi potreste dire, vabbè, questo è già un dolore che conosco, e quindi praticamente lo lasciate perdere. Oppure viceversa, potreste avere dell'interesse per quel dolore, cominciare a osservarlo e a guardarlo più da vicino, vedere come sorge questo dolore e come si intensifica, oppure come diminuisce di intensità, se il dolore se ne va, se poi torna, e via di seguito. Conoscere la natura, entrare in profondità nella natura del dolore. And then, furthermore, when we observe an object, we try to do so, keeping that object in view, not forgetting to observe the object. Sometimes what happens, we observe some object, at first it's interesting, and after a while it gets boring, and the mind starts out thinking about something else. This is forgetting the object. Un'altra qualità della consapevolezza è quella di mantenere in vista l'oggetto, non perdere di vista l'oggetto che state osservando. Quello che succede spesso è che dopo un po' l'oggetto diventa noioso e quindi la mente perde interesse e lo lascia andare. And the last part, I think I forgot that. Oh, but right. Anyway, I think I said that. That's all right. Okay. Now, the manifestation of mindfulness, the way we experience mindfulness, is certainly given as a state of confrontation, in a state of being face to face certainly with the predominant object of observation. La manifestazione della consapevolezza è quella del confronto, cioè ci troviamo faccia a faccia con l'oggetto che è sorto. And suddenly when you are in a museum and let's say there's a big painting hanging somewhere on the wall, then you will know its certain qualities only if you stand ideally just in front of in front of the painting, and then you observe it very carefully, every section of the painting, and in this way you will come to know what this painting is all about. Come se voi foste in un museo, allora per conoscere bene un quadro, per vedere bene un quadro, dovete mettervi proprio di fronte, alla giusta distanza, ma di fronte a questo quadro. Allora comincerete poi a osservarlo nei minimi dettagli e saprete esattamente di cosa si tratta. And mindfulness would not be if together with a friend you walk through that particular hall of the museum, you talk and you briefly for a second or two see the painting and you just keep walking. Invece quello che non sarebbe un'osservazione consapevole sarebbe la situazione in cui siete in questo museo con un amico, molto velocemente passate davanti a questo quadro, buttate lì lo sguardo, però poi tirate dritto. And then what suddenly happens is when we're mindful from moment to moment, then we'll experience purity of the mind. And that purity of the mind is the result of the second, sorry, connected with the second manifestation of mindfulness, namely guardianship or protection. Dopo un po' che si osserva l'oggetto in maniera continua, sorgerà, o che si pratica la consapevolezza in maniera continua, sorgerà una certa purezza della mente. E questa purezza della mente è collegata con la seconda manifestazione della consapevolezza, che è quella di che riguarda il fatto che la mente è come se facesse da guardia, cioè che proteggesse la mente. And so, in order to cause mindfulness to arouse, and for mindfulness to get stronger and stronger, what we need is a continuity of mindfulness, one moment of mindfulness after another. That's one proximate cause, and suddenly the other one being a clear and strong perception of the respective object. Quindi sono due cause prossime per la consapevolezza. La prima è che affinché la consapevolezza nasca e cresca è necessaria la consapevolezza stessa, cioè più siamo consapevoli e più viene in qualche modo alimentata. E la seconda è il fatto che noi vediamo chiaramente l'oggetto che è sorto. And usually these two proximate causes are given in the opposite sequence. Di solito queste due cause prossime sono date nella sequenza opposta, quindi prima vedere chiaramente l'oggetto e poi il fatto che la consapevolezza alimenta la successiva consapevolezza. No, we've mentioned already, I think last night and also this morning, the importance of the continuity of mindfulness. What do you think? Which other qualities does your mindfulness ideally need to possess? Abbiamo parlato già ieri sera, anche stamattina, dell'importanza della continuità della consapevolezza. E secondo voi, quale altre qualità deve possedere la mente per accompagnare, diciamo, questa consapevolezza? So, what's your idea about this? Qual è la vostra idea a questo riguardo? Yes, Gus? Friendliness. Pardon me? Friendliness. Friendliness. In which sense? Towards being, what? Being benevolent to the object. Oh, friendliness towards the object. So you don't see the object as an enemy. No. Yes, okay, good. Allora la qualità che suggeriva Gus è questa amichevolezza, si può dire, cioè il fatto di non vedere l'oggetto come un nemico, ma essere avere una certa benevolenza verso l'oggetto. Mm-hmm. And then what else? What other characteristics or qualities should our mindfulness possess? Quale altre qualità dovrebbe possedere la nostra consapevolezza? Yes, in the back. La curiosità. Curiosity. Oh, curiosity helps. Sì, la curiosità aiuta. And something, what about an object arises and something, before you turn your mindfulness to it, you get lost in thinking. So then you think about the future, or you think, why did this object arise? How come this object is arising, etc. Will this be helpful or not? Allora immaginate che sorge un oggetto, voi cominciate prima ancora a rivolgere la mente all'oggetto, cominciate a pensare, per esempio, al futuro, oppure cominciate a chiedervi, ma come mai è sorto questo oggetto, cosa l'ha causato, eccetera. Questo sarà di aiuto oppure no? No, so good. Posso dire l'intenzione di cura per l'oggetto. The intention to take care of the object in a way, to care about the object. To care about the object, yes, that's good. Sì, that's a good point. Mm-hmm. No, and to be serious about the observation of the respective object. Quindi essere seri rispetto all'osservazione dell'oggetto, l'osservazione dell'oggetto che è sorto. Now, early on, the point was that as soon as an object arises, our mindfulness goes towards it. So immediacy is necessary. Quindi il punto che facevamo prima è che appena sorge un oggetto, allora la mente immediatamente deve andare verso l'oggetto. Quindi l'immediatezza è un elemento molto importante. And so we don't want to get lost in thinking. E non vogliamo perderci nel pensiero, nel pensare. No. Maybe this much on mindfulness. Mindfulness has many other qualities, but we'll mention them during the next few days. Quindi ci fermiamo qui per quanto riguarda la consapevolezza, ha molte altre qualità, ma magari ne parleremo nei prossimi giorni. Now, in order to do a really good job in your observation of whatever predominant physical or mental object comes up, you will need the help of some other mental states or mental factors. One of them is faith. Allora, per fare un buon lavoro rispetto al lavoro della consapevolezza, diciamo, rispetto a tutti gli oggetti fisici e mentali che sorgono, è necessario sviluppare delle altre facoltà, delle altre qualità, e una di queste è la fede. And so to explain first through explaining about the opposite or mentioning it's opposite or antidote. So an object arises, and then you observe this object with a mind full of doubts. Allora, per spiegare questo concetto è bene considerare il contrario, cioè uno osserva un oggetto con una mente piena di dubbi. So let's say you're observing the rising and falling movement of the abdomen, and then your mind goes, oh, what's the use of observing the rising and falling? Why do I have to do this? It's not leading anywhere, this is just a waste of time, why am I here, etc. Allora, per esempio, state osservando l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome e cominciate a pensare, ma a cosa serve guardare l'addome? Questo appunto non serve a niente, sto perdendo il mio tempo, cosa ci faccio qui, eccetera, eccetera. So, a mind filled with doubts, will it be able to be really mindful or not? Una mente piena di dubbi potrà essere veramente consapevole oppure no? No. So, one of my two simple questions. Questa è una delle mie due domande semplici. So, obviously. And it's much easier to observe a predominant object when doubt, skeptical doubt, is absent, and certainly instead some underlying or some very basic faith in the goodness of the practice is there. Allora, ovviamente è molto più utile per l'osservazione consapevole di un oggetto che vengano messi da parte i dubbi scettici e che sia presente invece una forma anche abbastanza di base, diciamo, di fede e fiducia nella bontà della pratica, di ciò che si sta praticando. And so another way of putting it is to have trust in the practice. Yes, this is really working. Un altro modo per mettere la questione è credere, avere, come dire, fiducia nella pratica, dire sì, effettivamente questa è una cosa che funziona. Now when you practice or when you observe predominant objects with mindfulness and also with faith and effort, then very likely you will come to know the nature of the respective object, and then you will be pleased with yourself, you'll find more and more interest in the practice, and as a result of this, more and more faith arises. So clear experiences leads, or clear cut sudden arising of wisdom leads to the arising of more faith. More faith will strengthen your desire to practice, will strengthen your effort, will strengthen your mindfulness, will strengthen your concentration, and then will lead to the arising of ever deeper wisdom. Dunque, spero di ricordare tutti questi passaggi. Comunque, il fatto di sviluppare questa maggior consapevolezza unito alla fede e allo sforzo ha come risultato una certa soddisfazione nella propria pratica, una gratificazione, diciamo così. Questa gratificazione porterà ad una maggiore fede nella pratica, che a sua volta causerà una maggiore saggezza. Poi la maggiore saggezza è tutta una catena praticamente, the wisdom rising of wisdom leads to more faith. Ecco, questa a sua volta porta a una maggiore fede. And this in turn leads to a stronger desire to practice, which leads to exerting more effort, better mindfulness and concentration. E questo quindi porta a un maggiore desiderio di praticare, un maggior desiderio di praticare porta a una consapevolezza più chiara, a una maggiore energia, a una maggiore fede e via di seguito, insomma. Quindi aumenta progressivamente. And suddenly the faith that the Buddha has in mind is not a form of blind faith, but rather a faith that is investigating the truth or investigating the objects, trying to find out for oneself what is actually going on, and then arising out of one's observation. Quindi la fede di cui parla il Buddha non è una fede cieca, ma è una fede basata sul desiderio di investigare sull'oggetto, investigare l'oggetto, e quindi è basata sulla una propria esperienza riguardo appunto all'oggetto osservato. Now, when we observe some predominant object and our observation is based on some solid or somewhat solid initial faith, and also we're exerting a fair amount of effort and mindfulness arises, then it's quite likely that concentration will be present. The mind will be sticking to the most predominant object. Quindi quando c'è questa fede di base unita a una certa dose di energia, allora a questo punto la consapevolezza diventa sempre più continua e precisa, e di conseguenza si svilupperà la concentrazione. Quindi la mente riuscirà sempre più a rimanere con l'oggetto osservato. And there's two aspects here with regard to concentration. One being the mind is fixed or glued to the object, the other being the mind itself being unified, conglomerate. So one is sticking to the object. Sticking to the object, and the other one is that the mind is unified. That's better. Okay, ci sono due aspetti da considerare riguardo alla concentrazione, è che quando appunto viene sviluppata, allora la mente da un lato è come si può dire, è incollata all'oggetto, cioè si attacca all'oggetto osservato, e dall'altra parte diventa un tutt'uno con l'oggetto, si unifica all'oggetto. Now, in the observation of an object and trying to come to know its nature, concentration plays an important role. Quindi nell'analizzare un oggetto, nel cercare di comprenderne la natura, la concentrazione gioca un ruolo molto importante, svolge un ruolo importante. Now, let's say you observe an object, you try to know its nature, however, after just 1 second of observation, your mind is already on some other object. Immaginiamo che sorga un oggetto, poi avete l'intenzione di conoscere la natura di quell'oggetto, ma dopo un minuto la mente se ne va e passa a osservare un altro oggetto. And then it moves on to yet another object, etc. How are you going to know the nature of the first object, of the second object, etc.? E poi magari saltella su un altro oggetto ancora, poi un altro ancora. Come farete a conoscere veramente la natura del primo oggetto che è sorto, o del secondo, e così via? So hence it's important that the observing mind is on one object for at least some amount of time. Quindi è molto importante che la mente rimanga su un oggetto per un certo periodo di tempo almeno. And at that point, then all the relevant mental factors are all unified, they're all working on the same object. E a quel punto tutti i fattori mentali coinvolti, quelli importanti, stanno lavorando insieme per capire, per conoscere quell'oggetto che è sorto. If the observing mind, or if the mind itself is scattered, then let's say you're observing an object and at the same time you want to do some thinking, and you are also trying to recognize what the object is, etc. It's going to be very difficult to know the nature of the object. Se la mente è frammentata e quindi sorge un oggetto, voi cercate di capire l'oggetto, ma allo stesso tempo volete anche intrattenervi in qualche pensiero, allora sarà molto difficile conoscere la vera natura di quell'oggetto. Now, Concentration, therefore, is one of the five controlling faculties. Quindi la concentrazione è una di queste cinque facoltà di controllo. And certain concentration has to be in good balance with certain another controlling faculty, namely effort. Quindi la concentrazione deve essere in equilibrio con un'altra facoltà di controllo che è lo sforzo. And certainly, if, for instance, our effort is excessive, then it will lead to restlessness. When the mind is restless, then it cannot come to know the true nature of an object. Se lo sforzo è troppo, allora questo può risultare in una irrequietezza. Se la mente è irrequieta, non riuscirà a conoscere bene la vera natura dell'oggetto. On the other hand, if concentration is in excess, then from an experiential point of view, this leads to sleepiness. Se invece d'altra parte c'è troppa concentrazione, e questo da un punto di vista proprio esperienziale, basato sull'esperienza, allora la troppa concentrazione può portare a sonnolenza. And so what we need is balance of effort and concentration. Quindi è necessario avere un equilibrio tra lo sforzo e la concentrazione. Also, if the effort is not enough, is deficient, and then this may lead to sloth and torpor, and if our concentration is deficient, then this will lead to a distracted or restless state of mind. E allo stesso modo, se c'è troppa poca concentrazione, troppo poco sforzo, allora questo produrrà sonnolenza, così come se ci sarà troppa poca concentrazione, la mente sarà di nuovo agitata, irrequieta, distratta. No, when faith is present, effort is present, mindfulness is present, and also concentration are present, then the result will have to be the arising of intuitive knowledge. Quindi quando sono presenti questi primi quattro fattori, quindi la fede, la consapevolezza, lo sforzo e la concentrazione, allora inevitabilmente sorgerà il quinto fattore, che è la saggezza intuitiva. And at that point, when you observe an object, then you will clearly come to know its nature. A quel punto, quando si osserva un oggetto, allora si verrà chiaramente a conoscere la sua natura. Knowing the nature of an object starts with very simple things. So let's say numbness in your foot or in your leg. La conoscenza della natura di un oggetto viene in modo molto semplice. Per esempio, prendiamo un senso di, come si dice in italiano? Quando vi si addormenta una gamba, di intorpidimento della gamba. And so, when we observe this properly, we will find some numbness is starting in the right foot, and as we observe it, the numbness increases, it spreads out to the lower leg, and then it spreads out even further, including the thigh, and then it gets pretty unpleasant, and then one might and then maybe also some stiffness is there, etc., etc. All of this means one knowledge is there. Okay. One is gaining knowledge about this particular event or object of numbness. Allora, per esempio, uno comincia a osservare che questo intorbidimento comincia con il piede, poi va su, si estende al polpaccio, poi prende la coscia e poi nota che c'è una certa un certo disagio, c'è una certa tensione nella gamba. Allora, questo è l'aspetto della conoscenza, vuol dire che uno sta veramente conoscendo qual è il fenomeno dell'intorpidimento della gamba. And certainly then you might also realize in this connection that certainly the mind is certainly getting somewhat certainly impatient with the numbness, and or maybe some worries arise. What happens if the numbness increases? Am I ever going to leave this meditation center again? Allora, poi potete osservare quello che accade nella mente, per esempio, potrebbe esserci una certa irritazione, mi sembra che abbia detto come prima cosa, o anche per esempio una preoccupazione rispetto a questo intorpidimento della gamba, che può essere seguito da pensieri di tipo adesso chissà cosa succederà, sarò mai riuscirò mai a lasciare questo centro di meditazione? And certainly, so it is in this way, in a very simple way, that we come to know the nature of this object, another object, another object. Ed è proprio in questo modo, in un modo molto semplice, che noi riusciamo a capire la natura di questo oggetto piuttosto che di un altro oggetto ancora. And there's nothing esoteric about the whole thing. It's really down to earth. E non c'è nulla di esoterico, no, rispetto a questo. È proprio una cosa terra a terra. And now then, as your practice will continue, you will gradually then get to a point where you learn to distinguish or discern between physical and mental formations. Poi man mano che la pratica si sviluppa e va avanti, uno imparerà gradualmente a distinguere tra ciò che è un fenomeno fisico e ciò che è un fenomeno mentale. And this thing would be gets called an intuitive insight knowledge. E questo viene chiamato una conoscenza intuitiva dell'insight, in inglese intuitive insight knowledge. No, the controlling faculty of wisdom needs to be balanced with faith, and if one's faith is in excess, then it turns into blind faith, and if one's wisdom is in excess, then it doesn't qualify as wisdom anymore, and then it becomes kind of a cunningness. Cunningness. Very intellectual. Okay. E quindi anche queste due facoltà della fede e della saggezza vanno tenute in equilibrio. Quando la fede è in eccesso può diventare una fede cieca, invece quando la saggezza diventa troppo forte o è in eccesso può diventare una sorta di qualità intellettuale, un voler sapere tutto, insomma, far vedere di sapere. And so, on the other hand, when one's faith is deficient, then doubts are likely to arise, and suddenly when there's a deficiency of wisdom, then ignorance will be there. Quando c'è troppa poca fede, allora nascono i dubbi, e quando c'è troppa poca saggezza, invece, questo porta ad ignoranza. No, let me conclude today's Dhamma talk by wishing may you apply the instructions certainly given in the Satipatthana Sutta to your meditation practice, and certainly may you make good use of the five controlling faculties, and certainly may this ensure a good development in your meditation practice, and may more wisdom arise. Allora conclude il discorso di Dhamma di questa sera augurando a tutti i meditanti di poter applicare le istruzioni date nel Satipatthana Sutta e inoltre di mettere in pratica o sviluppare le cinque facoltà di controllo e che questo possano portare a un rapido progresso nella pratica e a una sempre maggiore saggezza. And that's it. Sadhu.